voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. Hey, don't look at me! Eat my tits! We'll make a right turn up here. Don't look at me like that, I will eat your shit! You fuck my mother! Hey, hey, no, you can't. No, do you that. Do before, you look can't on do me. That, okay? They're gonna throw us in jail, me with you. You why you're in jail? He look on me, la la la, behind. You can't say that. Dichiarazione resa in data 2/2/1954 al commissario DPS Pasquale Cinquegrana, da Pagano Salvatore, di ignoto, trattenuto con l'accusa di aver sottratto un costoso apparecchio televisivo di marca americana dalla base militare delle forze alleate di Agnano, Napoli. Chiedo scusa, ma questa volta non vi ho proprio capito. Cos'è questa storia dello schiaffo? Sì, certo, Don Luciano lo conosco. E chi non lo conosce, quello? Già ve lo dissi che Agnano è la mia seconda casa, anzi, quasi la prima. Eppure Don Luciano ci viene spesso e uno lo conosce per forza. Andate a chiedere ai cavallari, ai picchetti, a quelli del bar, agli inservienti. Lo conoscono tutti. E voi dite che qualcuno gli avrebbe mollato uno schiaffo proprio il giorno che ci stavo anche io, il 3 di gennaio, quando ho vinto le 5.000 lire con la scommessa su Monte Allegro. Siete proprio sicuro? Guardate, questa cosa tra l'altro non c'entra nulla con quell'altra, quella del televisore americano. Dico, E se sapessi qualcosa ve lo direi volentieri, ma purtroppo non ho visto niente di simile e nemmeno ne ho sentito parlare. Che di una cosa così a Dagnano se ne sarebbe parlato parecchio, state sicuro. E chi è che va a dare uno schiaffo a Don Luciano? A quello gli vogliono tutti bene. Uno schiaffo, date retta a me, che se uno dava uno schiaffo a Don Luciano, di certo non trovava il tempo di venirvelo a raccontare. Non so se mi spiego, non avete capito? Beh, guardate, Don Luciano io lo conosco solo di vista, diciamo così, ed è una gran brava persona, ma certe altre persone gli danno contro e dicono che fa le peggio cose, solo perché è straniero, cioè è italiano, ma viene da Nuova York. Ed è facile, facile prendersela con lui. Allora i suoi amici, quelli che gli danno una mano a campare, si sono stufati, anzi, si sono arrabbiati proprio, che loro a Don Luciano ci vogliono bene. E insomma, se davvero uno gli molla uno schiaffo, quelli si dispiacciono. E voi sapete come vanno queste cose. Magari lo vanno pure a cercare, al malamente, per dirgli che non lo faccia più, che la cosa a loro ha dato molto fastidio e quello magari si mette a fare il grand'uomo. E voi chi siete, le vostre mamme chi sono e chi è Don Luciano? Questa era ancora 54 di Wu Ming. Ormai sono parecchi minuti da quando è cominciata la seconda parte di Eclettica. La voce che sentite è quella di Giulio Caperdoni, presente su queste frequenze tutti i giorni, tra le 19 e le 20. Giulio è radiorockfm.com, l'indirizzo di mail da utilizzare non solo per scrivermi direttamente, ma anche per iscrivervi alla lista nera di Eclettica, quella che vi permette di ricevere settimana per settimana la playlist della trasmissione, ma anche nel prossimo futuro l'indicazione dell'inizio della 14ª stagione, visto che con questa chiudiamo la 13ª. Abbiamo aperto con due brani molto ritmati, prima da New York City, The Cloud Room con 24 Hour Heartbreak, e poi da Brescia invece i Don Turbolento. Si prosegue con un artista che ritorna, quindi chi ascoltava Eclettica qualche anno fa si ricorderà del suo nome, Federico Aubeledo, a Buenos Aires, anche se negli ultimi anni si è diviso tra Berlino e Barcellona, sia suonando con il suo gruppo ma suonando anche il basso con i Thievery Corporation. Ecco, con questo suo secondo disco in pratica ritorna a casa, ritorna in America. Panamericana è il titolo del disco, non a caso, è il nome della strada che unisce Capo Horn e la Terra del Fuoco all'Alaska. E lo stile dell'album rispecchia l'incontro di tutte le culture che si sviluppano lungo la Panamericana, quindi il tango argentino, il bolero messicano, il dub, il reggae giamaicano, l'hip hop, veramente tanta, tanta buona musica all'interno di questo disco. 18th Street Lounge è l'etichetta per cui incide, quella dei Thievery Corporation, e il brano che io ho scelto di Federico Aubele è la terza traccia delle 13 contenute all'interno dell'album, En Cada Lugar. Thank you. I like you. Do you like me? I do like you. You are my friend? You're a nice young man and I am your friend. You will be my boyfriend. Yeah, I won't be your boyfriend. Why not? You don't like me. Well, I can be. No boyfriend, yeah, I can. Dinosaur wreck. Oh, dinosaur wreck. When will you hatch? 'Cause I got a million people coming on Friday and they expect to see a dinosaur, not an egg. Robot slave, oh robot slave, when will you spring to life? 'Cause I got a million people coming on Friday and I don't expect to serve them drinks myself. Tortured spirit, oh tortured spirit, when will you appear? 'Cause I got a million people coming on Friday and I don't wanna have to tortured spirit, oh tortured spirit, when will you appear? 'Cause I got a million people coming on Friday and I don't wanna have to scare the shit out of them myself. Bologna, 11 febbraio. Verso l'ora di pranzo, il bar Aurora è sempre mezzo vuoto, siamo in pochi, noi altri che restiamo anche a mangiare. Forse saremmo un po' di più se Capponi si sforzasse di offrire qualcosa di diverso, dal solito panino con la mortadella, non so, magari un bel piatto di pasta. Ma lui dice che per cucinare ci vuole una licenza speciale e Benassi non ne vuole sapere di prenderla, perché costa troppo. Del resto, anche potendo, chi ha famiglia preferisce andare a casa, che le tagliatelle di una moglie saranno sempre più buone di quelle di Pierre. Così verso l'una ci sono soltanto gli scapoli, i vedovi senza figli e quelli come la Gaggia o Brando che hanno la bottega a due passi da qui e non hanno voglia di tornare fino a casa. Ma passa un'ora e mezza al massimo e il bar torna ad animarsi come un gatto dopo la dormita, qualche sbadiglio ed è pronto a partire. Per primo arriva Bottone col figlio Massimo in motor scooter, un po' traballante sul sedile di dietro. Massimo è uno di quelli che ha fatto il concorso 10.000 km in Lambretta, quello dove si è piazzato terzo uno studente di Bologna che è andato nel deserto, poi fino a Capo Nord. Lui è arrivato a Parigi, ha conosciuto una ragazzina e si è scordato il concorso. Quando Bottone è già seduto vicino alla Gaggia e mescola il mazzo da tarocchino, entrano Valteruno e Garibaldi, che abitano nello stesso palazzo e girano ancora in bicicletta. Poi pian piano tutti gli altri con il loro ordine preciso. E l'unico che non sai mai quando potrebbe comparire è Melega, perché se ha una notizia da dare, aspetta che il bar sia pieno per fare più effetto, se no, dopo il lavoro è sempre tra i primi. Questo era ancora 54 di Wu Ming. Things that you love can get off track, 'cause everything don't come back. Avete avuto l'occasione di sentire due brani che erano al primo passaggio all'interno di Eclettica. Prima Scout Niblet con Dinosaur Egg, un'altra traccia dall'ultimo EP di cui già ci eravamo ascoltati un estratto settimana scorsa. E poi invece per la prima volta i Wheat con una traccia da Every Day I Say the Prayer for Kathy and Made a One Inch Square, il loro nuovo album uscito per Ever ed è la loro prima prova uscita per Ever, la quarta in assoluto. I Wheat sono una delle band che possono essere portate ad esempio su quanto gli abbracci con le major possono essere mortali. Nel loro caso era stato con la Sony, il terzo disco, ed era molti molti anni fa. Non riuscirono a liberarsi per un bel po' dalle spire della major. Si chiude questa trasmissione con gli Speck Mountain e Stockholm. Thank you. Eclettica, stagione numero 13, settimana numero 49, volume numero 4. Indice: Early Mart, Betty LaVette, Telephone Jim Jesus, Alaska in Winter assieme a Beirut, Great Lake Swimmers, The Cloud Room, Don Turbolento, Federico Ubele, Scout Niblet, Wheat, Speck Mountain. Giulio Caperdoni vi saluta, vi ringrazia e vi rimanda a domani, sempre alle ore 19, sulle frequenze di Rock FM.